Zia Pilar e zia Marta si incontrarono un pomeriggio vari anni, figli e uomini, dopo aver terminato le scuole elementari. E si misero a chiacchierare come se avessero ottenuto il diploma di bimbe diligenti il giorno prima. Avevano ricevuto lo stesso bagaglio di fissazioni, paure e coraggio. Ciascuna ne aveva tratto qualcosa di diverso. Al primo sguardo rivelarono la misura del proprio coraggio e la qualità delle proprie manie. Diedero tutto ciò per scontato e passarono a raccontarsi che cosa avevano fatto delle proprie paure. La zia Pilar aveva gli stessi occhi trasparenti con cui guardava il mondo a 11 anni, ma la zia Marta vi trovò l'impeto incancellabile di chi, avendo attraversato un mare di guai, non si è fermato a piangere un dolore senza cercare di porvi rimedio. Pensò che la sua amica fosse bellissima e glielo disse. Glielo disse in caso non glielo avessero detto abbastanza, per tutte le volte in cui ne avesse dubitato o perché era la pura verità. Si accomodò quindi in poltrona, felice perché le donne possiedono il privilegio di elogiarsi senza scandalizzare. Provava una tenerezza infinita per quella donna che aveva avuto 3 figli e 2 mariti e che aveva trasformato la propria cucina in impresa per liberarsi dei mariti e rimanere con i figli. Quella signora quasi quarantenne che lei non riusciva a smettere di vedere come una bambina di 12, la sua amica Pilar Sid. «I tuoi fratelli operano ancora le lucertole?» domandò Marta Weber. Lei si era dedicata al canto, aveva una voce ironica e ardente che le aveva procurato notorietà alla radio e dolori alla testa. Cantare era stato sempre il suo modo di riposare e di giocare. Quando ne fece un lavoro, diventò una sofferenza. Lo raccontò alla sua amica Pilar. Le raccontò anche del suo amore per vari signori, per i suoi figli e per il suo destino. Allora la zia Pilar guardò i suoi capelli in disordine, i suoi occhi come adombrati e le fece una carezza sul capo. «Non hai idea del bene che mi fai. Temevo che mi avresti oppresso con la felicità del potere e della gloria. Te lo immagini? Che noia sarebbe stata!» Si abbracciarono. La zia Marta si sentì pervasa dall'odore dei 12 anni. Si incontrarono nella hall del Hotel Palace di Madrid. La zia Celia stava chiedendo le chiavi della camera quando se lo sentì alle spalle. C'era qualcosa nell'aria quando lì passava che non si dimentica in 15 anni. La voce di lui sembrava uscire da una conchiglia. Ebbe paura. «Chi scruta nei tuoi occhi?» le disse sfiorandole le spalle. E lei sentì ancora il brivido che a 20 anni l'aveva spinta verso di lui. Era domenica. La zia Celia stava sorbendo un gelato al limone insieme alle altre ragazze che svolazzavano e cinguettavano per la piazza. Lui si avvicinò con il fidanzato di una di loro e fu presentato come Diego Alsina, il cugino spagnolo che avrebbe trascorso qualche settimana in Messico. Le salutò una per una, abbagliandole con un baciamano, ma quando venne il turno della zia Celia, inciampò nel suo sguardo e le disse: «Chi scruta nei tuoi occhi?» Allora lei li mantenne alti e rispose con la voce di fuoco di cui la natura l'aveva dotata: «Non ho ancora incontrato la persona giusta». Diventarono amici. Andavano tutti i giorni a giocare a squash a casa del Guzman e il matrimonio di Georgina Sanchez con José García, quello dei magazzini García, ballarono insieme fino all'alba. Lo fecero tanto bene che furono la coppia più discussa dopo gli sposi e il giorno dopo la coppia più discussa della città. A quell'epoca gli spagnoli erano come i diamanti, anche quando arrivavano soltanto con una valigia di cartone per doversi sudare ogni centesimo lavorando dietro il bancone sul quale la notte dormivano. Così Diego Alsina, che non solo era spagnolo ma anche ricco e nobile, stando ai racconti dei suoi cugini, lasciò la città con il fiato sospeso, nell'attesa di vedere se sarebbe partito oppure restato con qualcuna delle ragazze che fin da piccole imitavano la pronuncia castigliana per valorizzare le proprie nobili origini. La zia Celia inseguiva una chimera e Alsina si dimenticava di tornare in Spagna. Stava molto bene in compagnia di quella sivigliana senza insegne, nata per caso fra gli indios, piena di stravaganze che aumentavano il suo fascino, come piangere mentre cantava o tenere un mucchietto di peperoncini accanto al piatto mentre mangiava, a cui dava un morso tra un boccone e l'altro. Gitana la soprannominò e si innamorò di lei. Andavano a camminare per intere mattinate nella campagna che circondava la città. La zia Celia lo portava in cima a certe collinette spelacchiate che a suo dire nascondevano piramidi sotto il primo strato di terra. Aveva l'ossessione di un luogo chiamato Cacatla, dove amava immaginare l'esistenza di una splendida civiltà distrutta. Devastata dai quei selvaggi, irresponsabili e idioti dei tuoi antenati, disse a Diego Alsina a mezzogiorno di furia. Non dire che sono stati i miei antenati, rispose Alsina, perché io sono il primo membro della mia famiglia a visitare questo paese. I miei antenati non si sono mai mossi dalla Spagna. I tuoi antenati, invece, gitana, i tuoi sì furono dei distruttori. Andalusi affamati che per non morire tra olive e petraie vennero a vedere che cosa c'era da fare in America. I miei antenati erano indios, disse la zia Celia. Indios, rispose Alsina. E di dove ti viene quel naso d'andalusa? Ha ragione, Diego, disse Jorge Cubillas, un amico della zia Celia che passeggiava con loro. Noi siamo spagnoli. Non ci siamo mai mescolati con gli indios e credo che mai ci mescoleremo. O ti sposeresti con il tuo domestico Justino? Quello non è un indio, è un ubriacone, disse la zia Celia. Perché è un indio, ragazza mia, è un ubriacone perché è un indio, replicò Cubillas. Se fosse come noi, sarebbe un enologo. Mi devi sempre contraddire, sei esasperante, lo rimproverò la zia Celia. Tu e tutti gli altri mi esasperate quando ve ne uscite con la vostra stupida venerazione per la Spagna. La Spagna è un paese, non è la luna, e noi messicani valiamo altrettanto degli spagnoli. Abbiamo deciso che sono stati i tuoi antenati, dunque, disse Alzina. Ma perché non diciamo che se qualcosa è andato distrutto è un peccato e non mi dai un bacio pacificatore per cambiare argomento? Non voglio cambiare argomento, disse la zia Celia dopo una lunga risata. Poi baciò molte volte quell'uomo, tanto fine da non sembrare neppure spagnolo, ma ungherese. Jorge Cubillas e gli altri amici presenti alla scena annunciarono fin dal giorno dopo che il matrimonio tra i due era imminente. A quel punto la mamma della zia Celia, per quanto spagnolo fosse il ragazzo, preferì mandare le figlie minori al seguito di Celia quando usciva a passeggio con Alsina. Non fu difficile sistemare le bambine al cinema Reforma con 3 sacchetti di popcorn a testa e andarsene a spasso chissà dove tutti i pomeriggi. Come scopano bene le donne degli Indios, disse lui una volta in cima al campanile della chiesa della Santissima Trinità. Da allora trovarono nei campanili il rifugio di cui tutti i giorni avevano bisogno e ci andavano tenendosi per mano e baciandosi in pubblico come avrebbero fatto tutti i giorni 40 anni più tardi. A quell'epoca però, per tutta Puebla, si diceva che Alsina stava approfittando della leggerezza della zia Celia. Un giorno Cubillas trovò la mamma della zia che piangeva sua figlia come fosse morta, dopo aver ricevuto una visita che senza malevolenza, con tutta la considerazione per una povera vedova sola al mondo, l'aveva cortesemente informata di alcune delle storie che circolavano per Puebla, trascinando nella polvere la reputazione di Celia e devastandone il futuro. La gente fatica a sopportare la felicità altrui, le disse Cubillas per consolarla, e se la felicità viene da ciò che sembra una buona intesa con qualcun altro, allora è decisamente insopportabile. Così stavano le cose quando in Spagna scoppiò una guerra. La celebre Repubblica Spagnola era in pericolo. Alsina non avrebbe potuto trovare motivo migliore per sfuggire alla felicità. Tutto sommato, la guerra gli sembrava un passatempo meno difficile dell'amore. Lo disse alla zia Celia di colpo e tranquillamente, senza nascondere il sollievo che provava per essere costretto a fare a meno di lei. Perché l'assoluto bisogno che aveva di lei lo stava trasformando in un uomo ossessivo, geloso, tanto che contro le proprie convinzioni si sarebbe sposato con la zia, così com'era, in meno di un mese e in meno di 6 la routine lo avrebbe trasformato in un burocrate domestico che a furia di tenere una donna nel suo letto finisce per vederla come fosse un cuscino. Faceva bene ad andarsene e con queste parole lo disse alla zia Celia, che prima lo guardò come se fosse pazzo e poi dovette credergli, come si crede nei terremoti durante un terremoto. Si gettò su di lui a morsi e graffi, insulti e calci, lacrime, singhiozzi e suppliche. A ogni modo, però, Diego Alsina riuscì a sfuggire all'incanto. Poi, più nulla. La zia Celia sentì parlare per 3 anni della famosa guerra senza che nessuno menzionasse mai l'intervento di Alsina. A volte lo ricordava bene. Vagava lentamente per le strade, interrotte di tanto in tanto da una chiesa, e ad ogni chiesa entrava a recitare un'Ave Maria per rivivere l'euforia di ogni campanile. Alla sua cattiva fama si aggiunse l'orrore di vederla inginocchiata davanti al Santissimo Sacramento, intenta a recitare strane preghiere e quell'espressione di piacere che non si addice alle persone di fede. Avrebbe fatto meglio restare, diceva la zia Celia, invece di andare a impicciarsi in una nobile causa. Chissà che fine avrà fatto. Di sicuro l'hanno ammazzato come tanti altri, per nulla. Ma la colpa è mia, che l'ho lasciato andare vivo. Perché non gli ho cavato un occhio, perché non gli ho strappato tutti i capelli e il patriottismo, diceva piangendo. Così il tempo passava, finché arrivò in città un pianista ungherese dotato di un paio di belle mani e di un aspetto debole e dimesso. Quando la zia Celia lo vide trascinarsi sul palcoscenico del teatro principale in tutta la magrezza del suo corpo infantile, disse al suo amico Cubillas: «Quel poveretto deve stare come la mia anima». 10 minuti più tardi la violenta musica di Liz lo aveva trasformato in un grand'uomo. La zia Celia chiuse i 34 anni dei suoi occhi e si domandò se c'era ancora tempo per lei. Alla fine del concerto pregò Jorge Cubillas di presentarle quell'uomo. Cubillas era uno dei fondatori della società concertistica di Puebla. A dire il vero, insieme a Paco Sanchez, costituiva la società stessa. La sua amicizia con la zia Celia era soltanto una delle stravaganze che tutti vedevano in loro due. Erano di sesso diverso e avevano un cervello che funzionava in modo simile ed erano tanto amici da non rischiare di rovinare tutto con una cosa tanto meschina come l'innamoramento. Per di più, Cubillas aveva contattato l'ungherese, conosciuto in Europa perché era sicuro che sarebbe stato un buon marito per Celia. Ed ebbe ragione. Si sposarono 20 giorni dopo essersi conosciuti. La zia Celia non volle che le nozze avessero luogo a Puebla perché non sopportava l'odore delle sue chiese. Così diede a sua madre un ultimo dispiacere, lasciando la città insieme al pianista che conosceva soltanto da una settimana. «Non pianga, signora», le diceva Cubillas accarezzandole una mano. «Tra 6 mesi saranno di ritorno e nessuno si sentirà più in dovere di preoccuparsi della reputazione e del futuro di Celia. Per le donne sposate non si parla più di futuro». Non fosse che per questo è stato un bene che si sia sposata. Ti fossi sposato tu con lei, disse la madre. L'ultimo dei miei desideri è litigare, signora. Celia è la persona che più amo al mondo. La zia Celia e l'ungherese fecero il ritorno poco tempo dopo. Trascorsero l'estate sotto la pioggia e i vulcani di Puebla. Quindi tornarono a girare per il mondo di teatro in teatro. Neppure nelle sue più sfrenate fantasie la zia Celia aveva sognato una vita simile. In novembre arrivarono in Spagna, dove li attendeva Cubillas con l'elenco degli ultimi battesimi, funerali e separazioni che avevano messo in agitazione la città nei 4 mesi della loro assenza. Andarono a cena da casa Lucio e rientrarono verso l'una del mattino. Il buon ungherese diede un bacio a sua moglie e chiese a Cubillas di scusarlo se non rimaneva ad ascoltare vita, morte e miracoli di tanti sconosciuti. Jorge e via Celia fecero l'alba fra chiacchiere e pettegolezzi. Verso le 6 del mattino il pianista vide entrare nella stanza sua moglie, splendente di ricordi e nostalgie soddisfatte. All'inizio comunicavano tra loro in francese, ma entrambi sapevano di non poter conoscere l'altro profondamente senza parlarne la lingua. La zia, dotata di una memoria eccezionale, imparò in breve tempo un mucchio di parole e costruiva frasi e brevi discorsi sconnessi con i quali seduceva l'ungherese quasi sempre concentrato nello studio di qualche partitura. Tra loro c'era gentilezza e comprensione. La zia Celia scoprì che esisteva un modo diverso di fare l'amore. «Diciamo meno enfatico», confessò Cubillas quando verso le 4 del mattino la conversazione arrivò finalmente all'unico punto che avevano atteso per tutta la notte. «Ormai non sento più la sua mancanza, né quassù né laggiù», disse la zia Celia, indicandosi prima il cuore di sopra e poi quello di sotto. «Quando scopro dov'è sepolto, lo vado a trovare. Solo per fargli vedere che non verso una lacrima. Ho trovato la pace, non mi interessa più la magia». «Ah, amica mia», disse Cubillas, «dove c'è rancore c'è ricordo». «Sembri felice», disse l'ungherese quando Celia si infilò nel letto, stringendosi al suo corpo magro. «Sì, amor mio, mi considero felice. Sono molto felice. Boldog vajok», disse, impegnata a tradursi. 12 ore più tardi la zia rientrava in albergo da un giro di compere carica di pacchetti ed emozioni frivole, quando udì alle sue spalle la voce di Alzina. Suo padre diceva sempre che il tempo è un'invenzione dell'umanità. Mai prima di allora aveva creduto con tanta forza a quell'aforisma. «Chi scruta nei tuoi occhi?» disse la voce alle sue spalle. «Non ti avvicinare», disse lei, senza voltarsi a guardarlo. Poi lasciò cadere i pacchetti e si mise a correre, come se la inseguissero a cavallo. «Se ti giri diventi una statua di sale», pensò mentre saliva le scale verso la camera di Cubillas. Lo svegliò nel momento più sacro della sua siesta. «È qui!» gli disse tremando. «È qui, portami via, portami a Fatima, Lourdes, a San Pedro, portami via!» Cubias, non ebbe bisogno di domandarle di chi stesse parlando. Che cosa facciamo? Disse altrettanto spaventato della zia Celia. Che cosa vuole? Non lo so, disse la zia Celia. Sono scappata prima ancora di vederlo. Mentre loro tremavano, Alzina raccolse i pacchetti lasciati cadere dalla zia Celia, domandò il numero della sua camera e andò a cercarla. Lungheresa per la porta con la sua calma abituale. In che cosa posso esserle utile? Celia o Sejo? Disse Alzina. È mia moglie, rispose Lungherese. Soltanto allora Alzina si rese conto che il suo amore per la gitana taceva da anni e che era più o meno logico che lei si fosse trovata un marito. Mi sono offerto di portarle i pacchetti, siamo amici, lo siamo stati. Forse con Cubillas, lei conosce Cubillas? Disse Lungherese in spagnolo. È un nostro amico di Puebla, arrivato ieri, credo che non abbiano ancora finito di raccontarsi le novità. Aggiunse in francese sperando di essere capito. Alzina afferrò il nome di Cubillas e chiese all'ungherese di scrivergli il numero della stanza su un pezzo di carta. Poi gli consegnò i pacchetti, sorrise e se ne andò di corsa. Bussò alla porta del 502, come se dentro fossero sordi. Cubillas gli aprì brontolando. Che vergogna! Sparisci per 15 anni e ora vuoi tornare in 2 minuti! Disse. Alzina lo abbracciò e vide dietro le sue spalle. La zia Celia con gli occhi chiusi e il viso fra le mani. Vattene, Alzina, disse, vattene, che se ti guardo mi rovino quel che mi rimane da vivere. India, dovevi essere, le disse Alzina. E questo bastò perché la zia gli si lanciasse contro a calci e graffi con una veemenza tale come se avessero dormito insieme per 15 anni. Cubillas fuggì. Dalla stanza uscivano grida atroci che facevano tremare il corridoio. Si lasciò cadere a terra con le spalle alla porta e rimase seduto con le gambe rannicchiate. Non capiva granché, perché le grida si sovrapponevano. La voce della zia Celia era ora un turbine di insulti, ora un sussurro soffocato dalla furia ispanica di Alzina. Circa un'ora più tardi le grida si alzarono smorzando finché un alito di pace cominciò a uscire da sotto la porta. Allora Cubillas considerò un'indiscrezione rimanere ad ascoltare il silenzio e scese al secondo piano in cerca del pianista. L'ungherese stava indossando il frac, non trovava lo sparato e si sentiva incapace di farsi il nodo alla cravatta. Quella donna mi ha trasformato in un incapace, disse a Cubillas. Tu sei testimone che prima di conoscerla tenevo i miei concerti vestito come si deve. Mi ha trasformato in un incapace. Dov'è? Cubillas trovò lo sparato e gli fece il nodo alla cravatta. Non ti preoccupare, inventò. È uscita con la sua amica Maicia e con lei non c'è orologio che tenga. Se non arrivano in tempo, ci raggiungeranno al concerto. Il pianista ascoltò la scusa di Cubillas come chi ascolta una messa in latino. Si pettinò senza dire una parola e senza dire una parola fece tutto il tragitto fino al teatro. Cubillas si prese la responsabilità di riempire il silenzio. Anni dopo ricordava ancora con vergogna di essersi sentito un pappagallo. Le ultime note di Prokofiev uscivano dal piano quando Celia Osejo fece il suo ingresso nel palco dove sedeva Cubillas. Pochi secondi dopo, tutto il teatro applaudì. Grazie mille, disse la zia Celia al suo amico. Non potrò mai ricompensarti abbastanza. Dal palcoscenico, gli occhi di suo marito la scoprirono come un rifugio. Lei applaudì tanto che lo fece sedere a suonare il primo bis della sua carriera. Mi potresti raccontare tutto? Disse Cubillas, sarebbe una buona ricompensa. Ma non posso, rispose la zia Celia, le labbra accese da qualcosa di misterioso. Racconta, non essere cattiva. No, ribatté la zia, alzandosi in piedi ad applaudire suo marito. Per 40 anni non tornarono mai più sull'argomento. Soltanto poco tempo fa, quando gli antropologi scoprirono le rovine di una civiltà sepolta nella valle di Cacatzlá, la zia disse al suo amico mentre passeggiavano sopra il passato: Scrivi a Diego Alzina e raccontagli fino a che punto avevo ragione. Che Diego? Domandò l'ungherese in perfetto spagnolo. Un amico nostro che è morto, rispose Cubillas. La zia Celia continuò a camminare come se non avesse sentito. Come l'hai saputo? Chiese dopo un poco con la testa piena di campanili. Voi due. Disse il lungherese, morirete mercanteggiando l'ultimo pettegolezzo. Non credere, gli disse la zia Celia, in perfetto ungherese, io ho appena perso la guerra. Che cosa gli hai detto? Chiese Cubies alla zia Celia. Non Non te lo posso dire, rispose lei. A volte la zia Monica avrebbe voluto con tutte le sue forze non essere com'era. Detestava i suoi capelli e la sua pancia, il suo modo di camminare, le sue ciglia spioventi e il suo bisogno di cose diverse dalla pace nascosta fra i vasi di fiori o dal tempo che fuggiva assorbito in faccende e tanto in fretta che raramente succedeva qualcosa di più importante del battesimo di un nipote o della strana scoperta di qualche sapore nuovo in cucina. La zia Monica avrebbe voluto essere un palloncino di quelli che i bambini si lasciano sfuggire in cielo, per poi piangerli come se avessero fatto qualcosa per non perderli. La zia Monica avrebbe voluto montare a cavallo per cadere una buona volta e spaccarsi la testa in due. Avrebbe voluto viaggiare per paesi esotici o girare i villaggi messicani con la stessa curiosità di un'antropologa francese. Avrebbe voluto innamorarsi di un barcaiolo d'Acapulco, essere la moglie del primo aviatore, la fidanzata di un poeta suicida, la mamma di una cantante d'opera. Avrebbe voluto suonare il piano come Chopin e che qualcuno come Chopin la suonasse come fosse un piano. La zia Monica voleva che a Puebla piovesse come a Tabasco, voleva che le notti fossero più lunghe e più burrascose, voleva tuffarsi nel mare dell'alba e bere i raggi della luna come fossero camomilla. Voleva dormire una notte al Palace di Madrid e fare il bagno senza reggiseno nella fontana di Trevi, o almeno in quella di San Miguel. Nessuno capì mai perché non potesse starsene tranquilla per più di 5 minuti. Doveva muoversi perché altrimenti veniva sopraffatta dalle fantasie. E lei sapeva benissimo che le fantasie vengono punite, che quando uno comincia a commetterle arriva il castigo, perché non c'è peggior castigo della netta sensazione di stare sognando piaceri proibiti. Per questo mise tanto impegno nel farsi una casa con tre cortili, per questo si inventò di mettervi due fontane e trasformare la parte sul retro in appartamenti per gli ospiti. Per questo aveva una macchina per cucire sulla quale pedalava finché tutte le sue nipoti potevano sfoggiare vestiti identici la domenica. Per questo in inverno faceva sciarpe e berretti per tutti i membri rispettabili e non della sua famiglia. Per questo un pomeriggio si tagliò da soli i capelli che le arrivavano alla vita e che tanto piacevano al suo amorevole marito. Tanto amorevole che per mantenerla lavorava fino a tornare a casa la sera con gli occhi sfiniti e il sorriso beato, ma inutile, dell'uomo che compie il suo dovere. Nessuno ha mai fatto tanti biscotti al formaggio come la zia Monica, né tanto buoni. Erano lunghi e fini. Passavano ore e ore lavorando l'impasto, poi li metteva in forno a fuoco lento. Quando finalmente erano pronti, li ricopriva di zucchero e dopo averli contemplati per mezzo secondo, se li mangiava tutti in una volta. Il guaio, confessò una volta, è che quando li ho finiti, ho ancora posto per qualche follia che mi accompagna quando vado a dormire. Chiudo gli occhi per vedere se passa, ma niente. Allora parlo con Dio. Me l'hai mandata tu? Sai che ci ho combattuto per tutto il giorno. Vincerà lei. Vediamo se domattina mi vorrai perdonare. Poi si addormenta con la tentazione negli occhi, come una santa.